Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Gregorio Fogliani. Qui Group è il futuro di buoni pasto e welfare nel mare della crisi. Di Anna Marino. Andando in barca a vela deve continuare a correggere la rotta. Il mare può cambiare da un momento all'altro e deve avere una capacità di affrontare qualsiasi situazione. Questo insegna, diciamo, il mare per me. Poi bisogna trovare anche un porto sicuro. Come vita imprenditoriale, sono abituato a essere spiazzato, non ho paura delle difficoltà, affronto qualsiasi cosa e penso sempre che c'è una soluzione e mai il problema. Nascere come imprenditore in una città marittima come Genova ha insegnato a Gregorio Fogliani come navigare nel mare delle difficoltà, come prevenire i rischi che, per esempio, possono colpire gli equipaggi. Chi prende il mare deve prepararsi, studiare le mappe, sapere affrontare il futuro. Come chi sceglie il welfare deve essere saggio e capire quali sono gli aiuti giusti in azienda per i propri dipendenti. Nel 1989, Gregorio Fogliani, classe 57, ha costruito l'unico gruppo a capitale interamente italiano nel settore dei titoli di servizio per il welfare aziendale e sociale, buoni pasto, voucher, premi aziendali, dei sistemi di pagamento e dei programmi di fidelizzazione. Oggi conta su oltre 1.300 tra dipendenti e collaboratori, un fatturato 2015 di 650 milioni di euro, un tasso di crescita annuo medio del 15,9% negli ultimi 10 anni. Tutto inizia però grazie alla sua famiglia, con cui si trasferisce ancora giovanissimo a Genova. Mia madre gestiva una trattoria e lì è stata anche una palestra, perché poi noi avevamo un locale. L'altro giorno proprio sono andato con le mie figlie a vederlo, perché siamo stati a un matrimonio, e mi ha fatto impressione, no, tornare al 75 che avevamo ancora questo locale. Però è stata un'esperienza positiva, perché è stata anche una palestra e una capacità di creare relazioni. Negli anni 70 avvia il proprio percorso imprenditoriale nel settore della ristorazione. Insieme a un gruppo di soci genovesi, lancia pochi anni dopo un'azienda di servizi alle imprese e nel 1989 crea Qui Ticket Service, società che lavora con le mense aziendali e che successivamente cambierà il nome in Qui Group. Azienda nata non solo per andare incontro alle necessità di altre aziende, ma per trasformare un momento di crisi in un'opportunità. I primi bisogni sono stati che noi siamo stati un po' costretti, nel senso che avevamo a un certo punto una catena di locali, circa dal 75 al 92 avevamo, diciamo, i più grossi locali a Genova, perché chiaramente eravamo molto dedicati prima sulla ristorazione. Abbiamo avuto l'occasione e sono subentrate, avevamo tutte queste convenzioni dirette con gli enti pubblici e sono subentrati i buoni pasto e stavamo perdendo fatturato. Mi sono fatto coraggio, trasformo le mie convenzioni dirette su Genova, cioè io dico sempre che ogni problema crea sempre una grossa opportunità. All'inizio degli anni 90 il business si espande. Fogliani investe in innovazione, ricerca e sviluppo. Nel 2004 inizia la diffusione su larga scala del nuovo servizio Buono Pasto Elettronico, che rivoluzionerà completamente il mercato dei buoni pasto, con un impatto paragonabile a quello che ebbe il Telepass nel settore autostradale. Scatti in avanti durante la navigazione imprenditoriale che Fogliani spiega così. Ma gli sviluppi sono stati un po' sempre per caso. Noi fatturavamo nel 94 circa 200 milioni di vecchie lire, che sarebbero 100.000 euro. Siamo partiti, diciamo, da 200 milioni, siamo passati a 4 miliardi. E quello è stato un salto pieno di difficoltà, però le esperienze più difficili ti fanno crescere. Nel 2007 lancia l'iniziativa Pasto Buono, un progetto solidale che permette di distribuire ai bisognosi cibo sano e invenduto dei pubblici esercizi in diverse città italiane. Invece di finire tra la spazzatura, il cibo donato porta benefici all'ambiente, oltre che a chi lo riceve, e può essere anche segnalato dagli imprenditori come donazione. E qui è iniziata l'attenzione verso il sociale, che sarà poi l'anima dei servizi di welfare. Noi, avendo tanti pubblici esercizi, ristoranti, tavole calde, bar, gastronomie, diciamo convenzionati con i nostri servizi, abbiamo costituito una fondazione che si chiama Pasto Buono. Doniamo, tramite le associazioni caritatevoli, del cibo sano invenduto, cioè gratis completamente. Cioè, perciò mettiamo noi in contatto sia l'esercente che vuole donare questo cibo che è lì invenduto, e sia l'associazione caritatevole più vicina. Questa iniziativa va a impattare non solo su quelle persone che sono senza fissa dimora, ma su persone che sono in un momento di difficoltà, perciò ci sono anche i centri d'ascolto della Chiesa, cioè proprio persone solo, anziani anche solo. Un pasto che tutti i giorni varia, dei migliori locali, siamo a 800.000 pasti, potremo arrivare anche a milioni e milioni di pasti, perché ci sono tanti esercizi, quasi tutti gli esercizi hanno del cibo invenduto. Seguono poi la creazione di PayBay, la software house del gruppo, e Welfare Company, società specializzata nell'emissione di voucher per il welfare sociale e aziendale. Ed ecco perché, secondo Gregorio Fogliani, il welfare aziendale e sociale è diventato sempre più importante. Occupare dei dipendenti è fondamentale perché aumenta la presenza femminile in azienda, perché bisogna fermare il turnover e la fuoriuscita di persone talentuose e formate, fermare l'assenteismo e migliorare la produttività in un momento di crisi, gestire i conflitti non sindacalizzandoli. Un esempio, dice Fogliani, che devono seguire tutte le aziende, a partire dalla sua. Tra i suoi oltre 1.000 dipendenti, le quote rosa sfiorano il 70%, una proporzione mai mutata, come lui stesso racconta. Bisogna, da una parte, no, mettere più soldi in tasca alle persone, cercare di conciliare lavoro e famiglia. Per esempio, noi, un'altra cosa, per esempio, un'altra esigenza, noi abbiamo il 70% donne. Abbiamo iniziato sempre che ho una foto in ufficio che eravamo 11 donne e 2 uomini quando siamo partiti. Oggi siamo, diciamo, 3 uomini e 7 donne. Questo ci ha dato un'esperienza, perché chiaramente ci bisognava dare, non so, una flessibilità di lavoro, una conciliazione lavoro-famiglia, dare dei servizi, perché la donna quando lavora deve stare tranquilla e deve avere una capacità e un equilibrio sia nella sua vita privata che nella vita lavorativa. Se ha questo, cioè uno ne beneficia, perché egoisticamente, diciamo, fa un investimento e non è un costo. Però avendo questo, cioè, si ha molto ritorno, perché una donna, se gli si dà la possibilità di avere questa libertà, rende tantissimo. Non conta niente per me quello del timbro, che uno entra puntuale, se ne esce puntuale non conta, è quello che fa durante il giorno. E le donne hanno una capacità di fare anche 2 o 3 lavori, perché il lavoro che fa una donna è molto impegnativo per me. E il perno del welfare è la produttività, che cala se ci sono problemi non risolti e irrisolvibili. La produttività è la soluzione alla crisi. Si può motivare i dipendenti a raggiungerla attraverso buoni regalo carburante, un coupon dell'arte, una carta prepagata, un social shopping, un buono bebè, ma in realtà si parte dalla persona più che dallo strumento da cui si genera la ripresa per l'azienda. E come spiega Gregorio Fogliani, il welfare è uno strumento, come la bussola, con cui si naviga meglio fino a destinazione. È come una nave con le scialuppe, però il welfare è come quando vado a mare, dice: cosa devo fare? Avere una rotta giusta, avere una strada ben delineata, avere una convenienza, cioè nel senso anche un rischio, perché senza welfare si perdono anche dei collaboratori. Il welfare è uno strumento, eliminare gli sprechi e semplificare la vita alle persone e metterle in condizione di dare il massimo. Non è che il controllo fa che le persone diano il massimo, quello che dà il massimo è far sentire una persona protagonista di poter, che è in grado di dare il massimo. Cioè, io dico sempre, bisogna autorizzarli a dare il massimo. Ecco, il welfare è come entrare in un porto sicuro. E dopo la storia di Qui Group, che mette la persona al centro del suo sistema di welfare, la storia di Taldenim, azienda italiana green che produce jeans ecologici. Nonostante la crisi, negli ultimi 5 anni hanno investito 4 milioni di euro in nuovi impianti e tecniche di lavorazione appunto green, svolta premiata e fatturato in aumento. Circa 20 milioni di euro, grazie al chitosano, sostanza organica che permette di ridurre lo spreco di acqua e l'utilizzo di agenti chimici. Mario Caccia, che nel 1974 ha fondato l'azienda, spiega come si fa a diventare una manifattura 4.0 umana e bio. Noi facciamo un prodotto che è il tessuto per i blue jeans, e quindi un tessuto di grandissimo uso a livello mondiale, ma anche di grandissima produzione. È un prodotto soprattutto fatto nei paesi in via di sviluppo, quindi il mondo è invaso da montagne di metri, soprattutto nei paesi come il Vietnam, il Bangladesh, il Laos, la Cina, e quindi noi facciamo un prodotto che è potenzialmente un prodotto povero. E proprio per questo abbiamo dovuto cercare di modificare il nostro tipologia di prodotto, dandogli un'impronta che deve essere completamente differente rispetto alla produzione tradizionale, anche se in realtà noi è 40 anni che facciamo tessuto per i blue jeans, cioè siamo stati tra i primi in Europa a importare l'idea del blue jeans come produzione. Quindi la crisi vi ha fatto fare, diciamo, un colpo di reni e un salto in avanti per riuscire, diciamo, a innovare. Il denim come prodotto è uno dei prodotti più inquinanti nel mondo della moda e del tessile. Questo inquinamento è facilmente tangibile nei paesi soprattutto del Far East, in cui veramente sono fiumi blu e condizioni di vita ormai disperate. Certo, la tintura, non più coloranti naturali ma molti chimici. Solo coloranti chimici e soprattutto prodotti chimici in eccesso, affinché le tinture vengano garantite con una certa qualità. Che cosa avete pensato? Invece abbiamo pensato di eliminare i prodotti chimici, quindi abbiamo acquistato la licenza di utilizzo di un brevetto che prevede l'utilizzo di un polimero naturale, che è il chitosano. È un polimero con delle caratteristiche chimiche molto simili a alcuni prodotti chimici che noi utilizzavamo fino a qualche anno fa. Innanzitutto un prodotto naturale, perché è un prodotto di derivazione dallo scarto dell'industria alimentare. Questa e altre storie, idee, curiosità d'impresa, anche in anteprima, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina programma di Voci d'Impresa e curiosando nella sezione extra, dove potete lasciarci anche i vostri messaggi. Voci di piccola impresa e su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di piccola impresa. Il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.